Speciale rugby, test match. Facciamo il punto sui test match del rugby internazionale a partire da come sono andati ieri gli azzurri. Questa volta arriva la delusione. Un'Italia diversa da quella di 7 giorni fa quando si impose al Sudafrica cede 17-19, primo tempo 7-3 a Tonga. Gli isolani ci superano nel finale dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, vincendo sostanzialmente con merito. Primo tempo con l'Italia che fa valere una supremazia nel territorio e nel possesso di palla, segna una meta con cittadini in uscita da raggruppamento, ne sfiora una con Van Schalkwyk e poi rinuncia ad alcuni calci piazzati per cercare marcature pesanti che però non arrivano. Nella ripresa Tonga si è fatta più intraprendente e si è portata una prima volta in vantaggio con un inserimento a 1000 di Piutau. Reazione immediata e controsorpasso dell'Italia con la meta del neoentrato Allan. Poi la prova TV nega una meta a Bisegni, quindi riprende il carosello dei calci e l'ultimo tocca a Takalua che centra i pali. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Padova. Speciale rugby, test match. In collaborazione con... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione.